La zanzara è veramente, io credo in Dio, ma se dovessi trovare una falla nell'ordinamento è la zanzara, perché non ha un motivo di esistere. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Oggi sono a Cala Scibetta e arrivo e pensando che io possa come cittadino, semplice cittadino, essere utile a far conoscere quella città, il sindaco prima mi riceve in un incontro privato e poi davanti alla cittadinanza, che io non sapevo sarebbe arrivata per questa opportunità veramente burocratica, mi accoglie con il vice sindaco, il quale ironicamente, elegante come era vestito, in mezzo a una banda che in modo anche eccessivo mi onora e festeggia il mio arrivo, finge di baciarmi la mano. Divertimento, gioco, battuta, senza alcuna allusione a nient'altro che alla felicità, ammesso che poi questa cosa sia accaduta, perché io non la ricordo. Allora un prete! Non faccia prediche ridicole dicendo ecco l'ossequio al potente. Io non sono potente, sono intelligente, sono capace, faccio conoscere le cose, l'ho fatto ovunque sia andato. Prete, rispetta me e rispetta la tua città. Cala Scibetta non può essere umiliata da un retorico prete che dice idiozie. Quindi prete, invece di dire stupidaggini, invece di approfittare del tuo potere non spirituale ma di intimidazione retorica e propagandistica contro un gesto che fu un gesto solo di affetto e di divertimento, ringrazia il cielo e prega Dio. Ti è chiaro? Prete, rispetta me e rispetta la tua città. Vattene Satana, vattene Asmodeo. Un prete! Pentiti Parenzo! Pentiti! Pentiti Parenzo! Parenzo! Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Siamo ancora in cerca di Parenzo, che non è pervenuto qui alla sede di Roma. Mi trovo a Roma, non è pervenuto. 18:39, scandalo, scandalo incredibile. Berlusconi ieri sera Porta a Porta sui 5 Stelle. Sui 5 dice che vuole scappare all'estero se ci sarà un governo 5 Stelle Lega. 5 Stelle con la Lega. Ci crede? Le manderò delle cartoline dall'estero dove mi recherò immediatamente. Due. Non si usa. Due. Di Battista, 5 Stelle. Napolitano leccò i deretani dei capi di Stato e avvallò l'intervento infame in Libia. Io me la prendo, il Movimento 5 Stelle, ma che sono stato io ad avallare l'intervento in Libia che ha distrutto quel paese aumentando i flussi migratori? Mi ricordo che fu Napolitano che leccò dei retani, mi perdoni l'espressione, ma io ne le dico tutte, importanti come quello di Sarkozy o come quello di Hollande, spingendo appunto Berlusconi, comunque il centrodestra, a quell'intervento infame. Sempre Di Battista, ormai i 5 Stelle sull'immigrazione hanno una posizione grillina. Sentite. Spingere appunto sui flussi migratori serve a qualcuno appunto per far sì che poi, dopo una fase di resistenza e di speranza, anche gli italiani appunto facciano un lavoro sottopagato. Sempre sui migranti, argomento che ci ha un po' rotti i coglioni, il governatore della Toscana Rossi contro Salvini, la gabbia. Ma un imprenditore potrà scegliere chi assumere sulla base della razza, o deve scegliere una quota di immigrati per far piacere a lei, a Renzi, alla Boschi, alla Boldrini? Un imprenditore con i suoi soldi assume chi vuole, buon Dio, in un paese libero, democratico e moderno. Come lei fa, mi faccia finire, sulla base della razza e dell'etnia. Non è vero nulla. Io secondo me è una follia parlare di immigrazione difendendo l'immigrazione, è molto impopolare, ma vengo qui a combattere e a dire le mie idee. Quando gli uomini si comportano bene, qualunque sia il colore della pelle, per me sono uguali in diritti e in doveri. Uguali in diritti e in doveri. Sentiamo, altrimenti è razzismo, altrimenti è razzismo. Questo è il punto. Per descrivere a casa, dopo sarebbe il posso? Pubblico può stare. Un altro Salvini, giusto posso? Per. Allora ragazzi, sta succedendo una cosa davvero incredibile a Torino e dintorni. Quando arriverà Parenzo sono veramente curioso di sapere cosa ne pensa. La cosa allucinante è questa: il 12 maggio scorso un uomo in moto viene investito da una macchina, in realtà un camper, che fa una manovra non consentita, cioè una manovra, una specie di inversione di marcia, chiamiamola così. E c'è questo camper, lo guida una giovane, sembra, anzi è quasi certo, una giovane rom di 21 anni. Questo uomo si chiama Oreste Giagnotto e rimane ucciso. La nomade va in carcere, viene arrestata poche ore dopo, però viene spostata a un certo punto nella sezione dedicata alle madri detenute, perché pare, anche se non è certo al 100%, che abbia una figlia piccola. Dopo pochi giorni questa qua evade, anzi l'altro giorno è successo, se ne va perché supera una specie di recinzione di 7 metri, le carceri italiane. Una rom, 21 anni, riesce a scappare dal carcere. Ovviamente questi, cioè i familiari di quello morto, sono incazzati come belve, anche perché abitano là vicino, e là vicino ci sono sempre i profumi, chiamiamoli così, i profumi del campo rom. Il figlio Antonio dice che non si fida più della giustizia, che ci vuole la giustizia privata, ha messo addirittura una taglia sulla rom. La caccia alla rom in tutta Torino, anche se qualcuno pensa che sia già scappato all'estero. Il figlio dell'ammazzato. Lo Stato è la cosa più marcia che abbiamo noi in Italia. Siamo mossi dal cuore, è questo che ci rende forti. Denaro, spenderemo tutte le ore che abbiamo a lavorare di permesso per avere giustizia per mio padre. Solo questo, che se lo mettano in testa, perché noi non molliamo, noi non scherziamo più. Il cuore non si ferma finché batte. La figlia si chiama Gemma Giagnotto, combatte con la Pavlovic, la capa dei Rom. Capa, insomma, quella che rappresenta sempre i Rom. Lo sapete chi è, no? Non bisogna aggravare ulteriormente le condizioni di una comunità che ogni volta quando succedono questi fatti paga come se fosse una colpa collettiva, non individuale. E il fatto è gravissimo. Però io vi prego di metterlo insieme a altri 114 fatti della piratteria, della strada? Allora, innanzitutto io non accetto di sentir parlare di quello che è successo a mio padre come incidente stradale. Io non l'accetto, quello è un omicidio stradale, è una cosa diversa. Cioè, anche omicidio perché stradale, certo. La gravità di quello che è successo, la gravità di quello. No, perché la signora prima diceva incidenti stradali, a me non interessa, io non voglio neanche sentirne parlare di questa cosa. Perché la signora che ha investito mio papà è andata lucidamente a nascondere un mezzo, è tornata al suo campo, è salita su quel cavalcavia davanti al corpo di mio padre a informarsi cosa fosse successo, come se lei non c'entrasse nulla. Quand'è che chiudete, cornuti? Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta La Zanzara. Ma Parenzo, brutto imbecille, ma tu conosci qualche rom che non rubi o che non stia in piedi facendo mille gabole e inculando la gente normale? Ma vai a cagare, imbecille. Spiaggia di Ponente di Milazzo, è quasi mezzogiorno. Camper di rom sporchi e zozzi quasi come cruciani. Tra poco si metteranno a fare una grigliata all'aperto e impesteranno tutta la zona. Sarà il momento buono per l'attacco. Il cacciatore è in agguato. Allora ragazzi, vi manca quel cornuto, adesso arriva intanto tipida zanzara la mitologica Maria Antonietta. Tipida zanzara. Maria Antonietta, provincia di Roma, vai. Vabbè. Maria Antonietta. Volevo soltanto pregarvi di una cosa. Dimmi, Maria Antonietta. Piacete tanto come trasmissione, sì, ma dite troppe parolacce. Questa è la ragione. Veramente non abbiamo detto oggi, però. Cortesia, sono costretta a spegnere. Maria Antonietta, io voglio capire una cosa, ma a 86 anni tu, per esempio, quando si parla, noi parliamo di sesso, di lunghezza del pene, di lunghezza del pene, no, ecco, ma lei si impressiona? Ma io non mi impressiono perché ho fatto tre figli, cioè ho avuto una vita molto bella matrimoniale. Anche sessuale, immagino, no? Anche, esattamente. Fino a quando ha scopato lei, se glielo posso chiedere con una certa delicatezza? Fino a un paio d'anni fa, fino a 84. Signora mia, però perché lei risponde a queste domande e cade nella trappola? Io rispondo perché mi va di rispondere. Parento, se faccio l'affari poi. Ma scusi, ma con chi? Per curiosità, con suo marito? Mio marito. Che poi è morto, immagino, no? No, no, adesso... no, è vivo e vecchio. Ah, mi scusi, signora, ho capito. Vabbè. E come mai fino agli ultimi due anni niente? Ho capito, perché basta. Non è stato bene e quindi basta. Che e si certo. Presta, ma lei... Gli hanno messo il pesnegger. Che gli hanno messo il pesmegger, non può più trombare sostanzialmente. Certo. Ma come certo, ma... signora mia? Ma perché deve interessarci questa cosa? Ma dai! Ma i tuoi! Ma pensasse a se stesso! Ma come si permette, signora? Che c'è lui con la moglie. Ma come si permette, signora? Che nessuno si permette di venire a di niente. Ecco, perché lei ha avuto solamente un uomo nella sua vita, signora? Ma ti frega? Un uomo solo. Da che età, signora Maria Antonietta? Ma ti frega? Da 22 anni. Da 22 fino a 84, amico mio. Esatto. Sono 62 anni di trombate solo col marito. Mi scusi per la parola. Esatto. Mi scusi. E mi sono piaciute. E suo marito perché è stato... mio marito mi soddisfaceva completamente. Anche. Ma sì, signora certo. Mia, ma le pare molto però, qua. Ma io non lo so. Ma naturalmente. Ma io ti vorrei far vedere come so ancora adesso a 86 anni. Ma com'è, figura, com'è, per carità, com'è 86 anni, signora? Ma per carità. Com'è? Una bella donna ancora? Sì. Una bella donna, cioè, ma chi se ne frega, dai, su. Attira anche giovani. Ma non attiro niente perché non me va ad attirare a nessuno. Però 86 anni ancora gli ammolla, come si dice. Ma gli ammollerei e come? posso chiedere se suo marito, come è ben dotato come uomo? Esattamente cosa poi? Ti saluto, Maria Antonietta, grazie. Sono stato soddisfatto in tutte le mie curiosità. Magari ti richiamerò. Ciao, cara mia. Grazie. Ciao. Ma che grazie? Tipi da Zanzara. Allora ragazzi, andiamo, andiamo a Mauro Barletta, vai. Crucia. Sì, dimmi. Cruciani, ma è arrivato Parenzo? No, ancora no, adesso arriverà. Mannaccia, vabbè. Tutti cazzi vabbè, ma dopo ti richiamo, casomai. Che gli vuoi dire? Ma che gli vuoi dire? Perché sarebbe fiero di me, perché come piace a lui, io spendo tutti i miei soldi in libri e grandi vini, niente puttane, niente questo. Vabbè. No, cioè, fai parte della maggioranza silenziosa, non ho capito. Diciamo di sì, vabbè, volevo parlare con padre, peccato, vabbè, ecco, lo faccio di cazzi suoi come al solito. Comunque, ti volevo dire, visto che sempre a parlare di trombate, le cose. Ma veramente no, veramente no. Comunque, abbiamo parlato di Roma adesso. Adesso sì, per in generale, cioè, ascolto quasi tutti. Spesso. Il sesso fa parte dell'uomo, cioè. Sì, ma io sono completamente d'accordo. E allora? Quello che ti voglio dire è, di solito chi ne parla tanto ne fa poco. Sì, volevo capire, ma tu trombi, non so quante volte a settimana, tu riesci a far squistare, cioè, visto che ne parli, volevo capire, tu queste cose le pratichi. Sì, ma ne ho parlato più volte, non c'è bisogno adesso, cioè, perché tu sei della scuola che chi parla tanto di sesso di solito non conclude nulla, questo detto ridicolo, questa cosa patetica, ridicola. Io ne parlo poco e ne faccio tanto, tu ne parli tanto, ne fai poco, credo. Cazzata, Pino, una cazzata in generale, non è che riguarda me, una cazzata in generale. Pino, Caserta, vai, Pino, vai, Pino. Ciao, Pino, dimmi. Senti, qualche 2-3 settimane fa ho fatto una riflessione, stando in bagno sul gabinetto. Sì, ho pensato, com'è possibile che insomma, dopo, siamo nel 2017, non inventano un gabinetto che tira pure il gas, la puzza, perché c'è il gabinetto, tira tutto, passa di tutto là dentro, però il gas sale, rimane nella stanza del gabinetto, del bagno, è micidiale. E allora il gas che vuol dire, scusa, con questo tuo accento la particolare, puzza. L'odore, la puzza, cioè tu ti stai chiedendo il motivo per cui non hanno inventato un gabinetto che elimina la puzza. Ma guarda che in Giappone, per esempio, ce ne sono di tutti i colori, ma anche qui, solo che alcune cose sono ineliminabili, amico mio, non è che possono rimanere, cioè sono non ci può stare un aspiratore che tira perché non esiste, scusa, non ho capito, non lo so, io non ma perché ti poni questo problema, non ho capito. È perché quando tu esci dal gabinetto per entrare altre persone devono stare finestre aperte, lo so, amico mio, funziona. Mezz'ora, cioè, ma immagino che tu sei uno di quelli che lascia nel bagno qualsiasi cosa, cioè è chiaro che lascia degli odori pazzeschi, già si sente, perché secondo me tu sei anche molto grasso, sei anche molto pesante, secondo me sei praticamente obeso, secondo me sei obeso, di questi qua con la pancia enorme, grossa, che scorreggiano in maniera incredibile, che lasciano degli odori pazzeschi. Lorenzo da Bologna, è vero che sei così, Pino? È vero o no? No, però, non sei così. Però ho fatto una combinazione micidiale di gassosa e vino bianco e praticamente è qualcosa di allucinante, rimane una puzza incredibile. Lo so, Lorenzo Bologna, vai Lorenzo, vai, veloce, buonasera, vai, dimmi. Buonasera, dimmi. Solo una domanda, una riflessione, il discorso sulla Roma. È evidente che è molto facile fare di tutta l'erba un fascio, tutti potrebbero dire non tutti sono così, questo allora? Non è episodio e tutto il resto. La domanda è, queste persone non si vogliono integrare, è evidente, perché continuiamo a prendere soldi. Com'è però sfondi una porta aperta, perché è evidente che non si vogliono integrare. Cioè, d'accordo, ma però è talmente evidente che non si vogliono integrare, poi tutti quanti possono scappare davanti a un incidente stradale, è successo anche, diciamo, a quelli che non sono di etnia Rom. Però chissà perché in quel posto lì dove i cittadini non vogliono i Rom, succedono pure cose di questo tipo. Fermo. Mi vedi qua un pompelmo d'era un fiato, ma tu sapessi che goduria. David sta andando a trans, David sta andando a trans, non c'è niente di male, è eterosessuale. David sta andando a trans, David sta andando a trans, David non è cattivo, ma a volte un po' passivo, ma solo con Efebal. E vabbè, vanno a trans, se si divertono a prenderlo a quel posto, che io... La Zanzara. Buonasera amico Rom, sono Parenzo. Verme, stai zitto, verme! Schifoso, lurido, schifoso, bidone umano, sacco vuoto, demente, invertito. Che cazzo lo chiamate ancora tu? Tu sei l'esasperazione del nulla, non serve a un cazzo! La mia merda, ti nobilita merda! Crusani, ho visto il tuo compagno di partito là che mi ha insultato, ha detto delle cose. Ascolta, chiamalo e passamelo, vediamo se ha coraggio di ripetere le cose che ha detto in segreteria telefonica. Grazie. E prenderemo il negus, gliene tu faremo di belle. E prenderemo il negus, gliene faremo di belle. Se lui farà il testardo, noi gli faremo la pelle. Dai, dai, dai, da vicino vincerai. Eccolo qui! Eccoci! Chiedo scusa, amico mio, non sai dov'ero. Sì, non immagino. Sai, cioè, dov'ero. Io in realtà lo sapevo, ma non volevo rivelare. No, ora lo puoi rivelare. Non sai, allora, dov'ero. Il comunista, no, puoi dirlo tu. Il comunista Parenzo è entrato a Palazzo Grazioli. Era di fronte a Berlusconi, certo, il quale gli ha offerto un contratto molto importante. No, bisogna dirlo. Pur di Torbi, gli ha offerto un contratto da un milione di euro. Ma come la balla colossale, sono alla settima, ma che scherzi. Ma stai scherzando? No, ha fatto semplicemente un'intervista in cui ha detto delle cose pazzesche, insomma, pazzesche, sì, che sentiremo domani vedremo. Ti saluta anche molto, però. Senti, ma come sta? Grazie. Ma come è stato questo impatto con il signor Berlusconi? Ha portato qualche oretta di ritardo, signor Berlusconi? Sì, guarda, ecco, questo vorrei dirlo con grande rispetto per le autorità politiche, civili e militari. Avevamo un appuntamento inizialmente alle ore 16. Amico mio. Ecco, poi mi sono un po' scontrato. No, perché dovete sapere che il signor Prezzo mi dice, tranquillo, intervisto Berlusconi alle 16, alle 17 sono già lì pronto a Roma. Ecco. Ore 18:30, il telefono era spento. L'immortacci tua. Vabbè. Sai, poi lì avviene un po' di tutto, no? Palazzo Grazioli, non ci si annoia mai, te lo posso dire. Ma io. C'erano femminucce? Vabbè, o no? No, è desertificata. Vergognati, perché per anni voi della sinistra. Ma come noi? Sì, tu per anni hai costruito delle tu, la gente lo deve sapere, per con quell'uomo che peraltro è stato un grande, possiamo dirlo oggi. Ma com'è dal punto di vista fisico? Fisico, no, l'ho com'è? Visto bene. Come l'ho sta? Visto, la grande elegantissima. Cioè, perché io ieri l'ho visto da Vespa un po' narcotizzato, devo dire la verità. No, questa era in forma splendida, raccontata con una barzelletta, ti posso dire solo. Beh, questo. Questo la racconta sempre. Che ma lì però ha raccontato una barzellettina, quando io ho detto, senti, racconta la barzelletta, è stato tra i suoi collaboratori un po' di terrore, perché forse avevano paura. Io ho detto, guarda, siamo in fascia protetta però qui, quindi non raccontiamo. E ha raccontato una barzelletta sugli uccelli, che sentiremo poi magari, sugli uccelli, ecco. In no, grande forma, ha fatto nomi per un ipotetico governo Berlusconi, di ministri. Ha parlato di Alfano, sai, amico mio. Ha parlato anche, ecco, del signor Grillo, pure ha paura di questo governo Grillo. Guarda, Grillo ha detto delle cose che dobbiamo un attimo verificare. Sì, ti voglio far sentire invece quello che ha detto a Porta a Porta su Maometto. Eh no, quello si è Berlusconi su Maometto. È stato un po' Maometto forte. Il guerriero. È stato un po' forte. Ha lanciato la guerra, che non è però nella sua anima, nella sua indole, lanciare la guerra all'Islam. C'è chi lo intende Islam per la pace e per la convivenza tranquilla e c'è chi invece lo ritiene come guerra alla Maometto, che ricordiamoci fu un generale che conquistava le città, che si faceva gli schiavi, che metà degli schiavi se li faceva assegnare personalmente. Il califfato che è nato sull'Islam è qualcosa che impone di tagliare la gola a chi è cristiano o a chi è ebreo. Berlusca sull'Islam, sul signor Maometto. Sì, qui forse ha sul perso. Maometto. Bravo Berlusconi, una volta tanto ti abbiamo sempre attaccato qui e soprattutto negli ultimi tempi per quello che hai detto sugli animali, eccetera, eccetera. Devo dire, questa cosa, stavolta su Maometto, secondo me, insomma, ti è stato un po'. No? Sei stato un po' spinto, no? Per occupare, per non cercare di farti fottere su quel fronte dalla Lega, eh? Comunque, vabbè, va bene uguale. Senti, però ieri sera a Porta a Porta, in attesa ovviamente della tua grande intervista di domani, qualcuno poi che la sicuramente criticherà. No, ma sicuramente rispetto a quella di Vespa sarà un po' più frizzante. Un po' più frizzante. C'è qualche domandina posta in modo un po' diverso, meno istituzionale, ecco, come lei mi insegna a cruciare in tutti questi anni alla Zanzara, ho imparato. Allora, da lei. Movimento 5 Stelle e i loro elettori sono dei buoni a nulla, così ha detto ieri sera. Il Movimento 5 Stelle e i loro elettori sono dei buoni a nulla. Ora molti di quelli che ci stanno ascoltando sicuramente votano 5 Stelle. Ecco, Berlusconi Mercurio ha detto ieri sera: siete dei buoni alunni. Soprattutto ha detto: siete dei morti di fame che non riuscite a mantenere le vostre famiglie. Sostanzialmente questo ha detto. Adesso è la traduzione cruciale, ma mi sembra anche la traduzione quella vera, reale. Una lettura. Sentiamo, sentiamo. È un possibile premier da parte del, del Movimento 5 Stelle, non credo davvero che ce ne sia uno. Sono tutte persone che non hanno fatto nulla nella vita, sono tutte persone che non hanno un lavoro. Alcuni di loro sono furbi e hanno imparato in fretta il mestiere del politico in Parlamento, ma come i loro elettori appartengono alla categoria di quei cittadini che non ha saputo fare niente di buono per sé e per la propria famiglia. Scusate, questo è incredibile. Cioè, Berlusconi dice che tutti i deputati dei 5 Stelle, nonché i leader vari, e i loro elettori non hanno saputo fare nulla di buono per loro e per la propria famiglia. Però oggi invece ha aggiunto che grazie allo stipendio di parlamentari si sono messi a posto praticamente. Sì, quindi... perché è quello che dicono tanti, no? Cioè, prima guadagnavano zero, adesso almeno da parlamentare, anche se un po' lo danno a questo fondo, eccetera, eccetera, un po' guadagnano. Comunque, l'elettore del Movimento 5 Stelle, dice Berlusconi, è un elettore povero. Però io ho votato 5 Stelle, sono perché, povero? No, ecco, sono dipende povero. In base a quali parametri. Chi sono gli elettori dei 5 Stelle? Nella grande maggioranza sono tra i 15 milioni di italiani che sono nella povertà più assoluta e sono 4 milioni e 600 mila o nella cosiddetta povertà relativa. Io non so se vi rendete conto, cioè adesso non so che dati a Berlusconi. Ha detto che la maggior parte, la stragrande maggioranza degli elettori di 5 Stelle sono dei morti di fame. Ma adesso cioè, sono persone che di bassissimo reddito, dunque votano 5 Stelle per protesta, perché sono incazzati con i governi, eccetera, eccetera. Va bene, Luca da Milano, vai Luca, iniziamo che è tornato. Ecco, so che lo volete assaltare. Ecco, sulla bellissimo. Questione dei robot, tu non sai che cosa è successo perché ti sei occupato di grandi questioni. Che è successo? Del signor Berlusconi, cose. Ma siete in questa radio, in questa trasmissione, dalle 18:30. Alle 21 siete ossessionati, siete. Andiamo avanti. Da che cosa? Dai rom, siete ossessionati. Amico mio, ma allora è successa una cosa, te la ricapito. A Torino, una ragazza rom di 21 anni, tu dirai, può succedere a tutti, un incidente stradale, muoiono 3.500 persone l'anno, ha fatto un'inversione di marcia con un camper, 21 anni, ha ammazzato un signore. Sì. Questo all'inizio di maggio. Cosa è successo? È questa qua viene messa in galera. Sì. Viene presa, giusto, messa in galera. Normale. Dopodiché scappa dalla galera, cioè dal carcere di Torino, scappa. Cosa incredibile. Male. Scappa. I figli di questo uomo morto sono incazzati come belve, perché questa pare che sia fuggita in maniera anche non particolarmente complicata da un carcere. Giusto. E dunque c'è la caccia a rom a Torino. Il figlio del morto ha messo addirittura una taglia, perché non si fida della giustizia, è incazzato nero, perché lo Stato dice che è una merda. La taglia è una cosa da taglia a rom. Ecco, non posso. Mi dispiace molto per la perdita, ma la taglia è una cosa. In Texas c'è la taglia. In Texas. Il cowboy. Non è il Burundi. Non è il Burundi. Il cowboy mette la taglia, un paese civile come l'Italia, alla giustizia. Cioè questa famiglia, ma la giustizia l'ha fatto evadere. La taglia è una cosa, sì, ma la giustizia l'ha fatto evadere. Ma ha permesso che questa qua era nel reparto maternità, perché pare che abbia una figlia piccola. Vabbè, e questa qua è saltata lasciando la figlia là. Ma tu capisci che una taglia è fuori dal diritto, la taglia. Luca da Milano, vai Luca Milano. Allora vai. Sì, buonasera dimmi, Luciani, dimmi. Buonasera sì, Parenzo. Sì, vai. Io volevo chiedere appunto al comunista con Rolex, perché ormai lo definisco così, cosa pensava appunto di questa faccenda qua. Sì, non c'è, intanto non ho il Rolex, purtroppo non ce l'ho, no, ho un altro orologio. Radical Chic un corno. Guarda, io non ho mai votato estrema destra o a destra, però secondo me se andiamo avanti così... Ma avanti come? Cosa vuol dire avanti? Avanti così, ma avanti con così lo come? Stato, lo Stato che assente, come il fatto quello di Macerata, dove una persona denuncia per stalker un'altra persona e questa persona è libera di ammazzare. Ma che cosa, cosa vuol dire lo Stato assente? Quando? Che vuol dire? In quale caso? Ma chi lo può dire? Chi vive a Gomorra vuol dire che lo Stato è assente? Ma cosa vuol dire? Ma è una cosa generica. In questo caso c'è una che è in questo caso è una drammatica evasione, un drammatico caso di cronaca, ma che c'entra lo Stato? Quella era stata arrestata. Ma questi non è che è colpa dello Stato. Sono nei campi rom là intorno, dove tra l'altro accendono fuochi di continuo questi rom. Nessuno smantella questi campi rom. Adesso io ho capito, c'è stata questa tragedia, quindi diventa il problema. Ma non è che il problema dell'Italia sono 15 campi rom sparsi da Bergamo. No, il problema dell'Italia è che la giustizia non fa la giustizia. Va bene, la giustizia non fa la giustizia. Ma quella, questa ragazza, questa assassina era in galera. Ma vi smentite voi stessi? Questa assassina però è scappata. ho capito, ma scappano anche negli Stati Uniti, purtroppo ogni tanto qualcuno scappa. Non era in galera, signor Parenzo, non era in galera, era una sarà stata in un regime di libertà, sarà appunto in un altro tipo di regime. Alberto Varese, vai. Sì, buonasera, vorrei innanzitutto salutare il mio concittadino Donato. Sì, vabbè, Donato, Donato sì, non ha bisogno di essere salutato da lei, signor Donato. Ok, perfetto. Parenzo, ero molto preoccupato che tu non venissi in trasmissione. Volevo ritornare sul caso di Ussoli. Io sono spaventato di come l'Italia potrà essere 20-30 anni di tutti questa cultura araba che ci potrà schiacciare. Ma quale cultura araba? Ma dove la vede la cultura araba? Ci potrà schiacciare, assolutamente. Sono terrorizzato della loro violenza che utilizzano sulle donne, della loro cultura violenza, della loro cultura molto violenza. Sono terrorizzato io e non capisco come. Alberto vuole fare l'emulo e il, come dire, il l'ammiratore del signor Donato da Varese, Però, caro Alberto, mi sembra che tu non abbia lo spessore di Donato, come dire, la anche la capacità oratoria, no? La capacità oratoria di Donato, no? Certo. Assolutamente. Vabbè, Domenico da Torino, vai, Domenico. È terrorizzato dall'Islam. Dai, vabbè, sei terrorizzato dall'Islam. Capirai che nuovo. Cosa vuol dire terrorizzato dall'Islam? Esatto, bravo. Domenico da Torino. Stai chiuso in casa. Non lo so, vai dallo psicologo, sono terrorizzato dall'Islam, facciamo una cura. Domenico da Torino, vai. Sì, pronto. Vai, dimmi Domenico. Che io sono veramente indignato per quello che è successo a Torino, perché cosa? Le cariche della polizia. Ottime le cariche. Indignato per le cariche, non per la gazzarra che c'era prima. Non sì, ho capito. No, esatto, per la cazzata che è successo. Perché Per la gazzarra che hanno fatto i centri sociali. Cioè, lei è indignato per la reazione dello Stato, che forse è stata eccessiva. Ma non è la reazione dello Stato, è la reazione di un incapace che ha voluto che adesso si trova in una situazione del cazzo, perché dopo quello che è successo in Piazza San Carlo, io comunque l'ho votata questa qui, adesso ha perso completamente la ragione e sta rendendo Torino una città fascista. Fermo là, stata... sì, la città fascista Torino, ma di che parliamo? Dai, su, dai, Zucchero, non si molla un cazzo, siamo tutti con te. Zucchero, la la la la la, Zucchero, la la la la, Zucchero, la la la la. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Faggiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701. E viva la maggioranza silenziosa, sempre. E così Parenzo rimarrà alla Zanzara l'anno prossimo, l'anno dopo e l'anno dopo ancora, a combattere con e per noi. Forza David, forza David! Qua Parenzo, ma sinceramente, ma prendi il Filippino, prendi Rom, prendi il teatro, prendi il libro, prendi tutta la maggioranza silenziosa e gli altri venne a fanculo tutto quanto. Ogni tanto qualcuno si ribella alla maggioranza silenziosa, alla cosiddetta maggioranza silenziosa. La maggioranza silenziosa esiste, è formata da brave persone, gente che non racconta di attività sessuali in pubblico, gente che si lava, gente che mangia con le forchette, a differenza di Mauro, di Donato da Varese. Mauro Donato non esiste. Gente che mangia con le forchette e non con le mani, gente che usa le brocche di vetro per mettere l'acqua. Ad esempio, c'è una cosa che io detesto, è quando vado, mi invitano a cena o a colazione a casa di qualcuno e trovo le bottiglie di plastica sul tavolo. Questa è la cosa che a me manda i matti, ad esempio, e chiedo venga sostituito con delle brocche di vetro. Brocche di vetro? Brocche di vetro. Cioè, l'acqua, le bottiglie di plastica o di vetro non ti piacciono? No, non è una cioè cosa... l'acqua deve essere messa dentro le brocche di vetro. È antiestetica la plastica. Ma tu sei completamente pazzo. Cioè, non ti va bene nemmeno i contenitori, quei contenitori per le bottiglie. Ma che sei, un picnic? Ma cos'è un picnic? È una cena, scusami. Cioè, a casa tua, se uno va, è tanto tempo che non vado a cena a casa tua, non troverai mai bottiglie o di plastica o di vetro. Le persone che sono di servizio hanno avuto o ordine di, no, di mettere delle brocche di vetro, ma è molto semplice, le compri in qualunque posto anche a pochi euro, non è che devi però di vetro, cioè l'acqua non può stare nella plastica, e vedere la plastica a tavola è una cosa che francamente mi manda i matti. Queste sono alcune piccole regole della maggioranza silenziosa. Se tu vai a ma è incredibile, la bottiglia di plastica a cioè tavola. Secondo te Maurone, scusa, non esiste, scusa, no, perdona, non esiste. Donato eccetera, tutta bevono, gente che... bevono a tavola, sì, con le gente bottiglie volgare, di plastica, con bottiglia, la bottiglia di plastica lì a tavola, il tovagliolino di carta, di carta, cioè di i puttanieri, gente che va nei bordelli, sì, cioè, il karma, gente, il karma quotidiano, il karma è uno che, esempio, che si pulisce con la tovaglia, cioè non ha il tovagliolo neanche di carta, si pulisce la bocca con la tovaglia, ma è gente così, gente volgare. Per la buona educazione basterebbe poco per avere buona educazione. Allora ti voglio fare sentire, di nuovo, tu non l'hai sentito prima, no, che eri impegnato con Berlusconi, no, esatto, il figlio del signore ammazzato dalla Rom. Questo ammazzato, mio, io dico ammazzato, travolto, sì, da un, sì, camper con una motorino, oppure secondo te è stato semplicemente un incidente stradale? No, diciamolo subito, come tanti, come tanti, no, lo puoi dire, è stato un incidente stradale come tanti, lo puoi dire tranquillamente. Questo è evidente che è un incidente stradale. Allora, Parenzo, due punti, no, l'incidente stradale in cui è una Roma di 21 anni, ma sì, ma non è che era ucciso, una Roma, è un incidente stradale ha drammatico, fatto un'invertudici, tanti italiani, quanti anche fanno se questa un'inversione a U, quanti fanno incidenti, io stesso ho la macchina distrutta che ancora non me l'hanno ridata, cioè quella per esempio a un certo punto è andata, è scappata nel campo, ecco, ed è tornata facendo finta di nulla, pare. Va bene, ma quanti italiani, quante persone hanno subito incidenti stradali e quello se ne andà e l'italiano è scappato via? Purtroppo i farabutti esistono dappertutto, no? Poi ovviamente essendo quella Roma e vivendo quella nell'illegalità ci fa ancora più paura, ma è un banda, drammatico, dici, banale incidente stradale, drammatico. Un caso di cronaca e basta. Ma che cos'è? Cioè, chi specula su queste cose quella... è un figlio di puttana, dillo. Ma chi specula su queste cose dicendo i Rom, hai visto quello che fanno, gli incidenti stradali, i campi, ma chi, i Rom i fanno incidenti stradali? Si nascondono, scappano. Ma è uno stronzo che specula su una tragedia. Cioè non è il fatto che è Rom. Cioè il figlio secondo te sbaglia a reagire su, ma no, il figlio non sbaglia. Chi ha avuto un lutto, vabbè, una ferita, è troppo facile, no, così, no, dai, è così, facile. Chi ha avuto un lutto non mi avrà mai contro, perché capisco la sua rabbia, dai, la sua ira. Lui di per sé ha ragione. Cioè quella persona che ha avuto il parente morto in quella roba lì ha tutte le scusanti del Antonio mondo. Antonio Giagnotto dice lo Stato è la cosa più marcia, vabbè, non ma... ci fermeremo. Vabbè, lui è non ci fermeremo. Ma non ci fermeremo, lui ha diritto, la rabbia sua e si trasforma in quello, ha diritto a farlo. Lo Stato è la cosa più marcia che abbiamo noi in Italia. Siamo mossi dal cuore, è questo che ci rende forti. Denaro, spenderemo tutte le ore che abbiamo a lavorare di permesso per avere giustizia per mio padre. Solo questo, che se lo mettano in testa, perché noi non molliamo, noi non scherziamo più. Il cuore non si ferma finché batte. La suocera della Rom, anche lei è stata interpellata in questa vicenda. La suocera della Rom. No, no, per carità. Laura è una ragazza di 20 anni. Non è una donna che è vaccinata, che può capire tante cose. Povera lei, è scioccata quella ragazza. Noi siamo le mamme dei nostri figli. E anche Laura è una mamma di due figli. E Laura non ha fatto niente di male. Adesso ci abbiamo anche paura di queste persone qui. Allora, eravamo con Domenico prima, Domenico da Torino, che dice che era indignato per le cariche della polizia. Non ho capito, Domenico, che dicevi? Non ho capito. Sì, sono indignato perché non riesco a capire come fate a voi non indignarvi. Quanti che anni ragazzi... hai, scusami, quanti anni hai? Ne ho 31. Eri lì? Sì, ero lì con un mio amico, il quale è stato pestato anche lui senza motivo, perché si parla solo di centri sociali, ma non si parla di quello che sta succedendo effettivamente. Sì, però amico mio, io non lo so chi è stato pestato o no. È chiaro che quando c'è una carica non si va troppo per il sottile, mi pare, sì, evidente, ma perché no? C'è stata una carica? Perché c'è stata una carica? Perché c'è un'ordinanza assurda. Assurda che dice che non si può bere il vetro, non può bere, ma non, lo decide lei. Ma scusa, in alcune zone della città, ma non è che c'è la proibizione totale? Ma di che parliamo? Il sindaco ha il dovere di intervenire per assicurare il decoro di una città. Ora protestiamo sempre contro le città che sono lasciate, esatto, che sono abbandonate. Una volta che un sindaco, magari sbagliando, esatto, perché poi torna indietro, adesso si pente. Ma lei aveva la carica dell'assicurazione. sicurezza da Nata Cardiff a vedere la finale di Champions League, è successo quello che è successo. Vabbè, ma ragazzi, ma lasciamo perdere, ma di cosa stiamo parlando? Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra questo adesso la finale di Champions League? Ma non ha chiesto scusa dopo neanche dopo 10 giorni, ma di cosa stiamo parlando? Questo è un altro discorso, stiamo parlando di un'altra cosa. È giustissimo che un sindaco decida, ma cosa c'entra col fatto che, scusa, poi tra l'altro con la polizia che carica? La polizia carica perché è stata insultata, vilipesa, attaccata, sputano in faccia ai poliziotti perché c'è gente che va solo all'unico scopo di provocare i poliziotti in piazza. Chiaro, questi dei centri sociali, eccetera, e tu lo sai benissimo. Ma questo è chiaro, no, ma questo è chiaro. E basta, solo questo. Emanuele Torino, Emanuele, vai, Emanuele. Dimmi. Sì, io la penso esattamente come Domenico, nel senso che comunque ma tu eri lì, non ho capito, eri dopo lì. Il 2006. Eri lì? Sì, ero lì, perché comunque Torino non è che ci sono molte zone dove si può uscire la sera. E che sei, dei centri sociali pure tu o no? No, non no, sei dei non centri sociali. No, non è un discorso di centri sociali, anche se comunque i centri sociali sono dei luoghi che soprattutto sì. negli anni 90 hanno portato quella. Vabbè, ma adesso non stiamo, facendo nessuna storia dei centri sociali. No. Non no, ho capito che sembra, cosa... A me sembra comunque che questo momento storico della nostra società funzioni momento molto in questo storico. Modo, ovvero che quale quando modo? C'è un problema si tenda comunque a cercare una soluzione che non è mai quella del problema, ma è per contenere... Massimo dalla... non ho capito un cazzo. Massimo dalla provincia di Pistoia, vai. Sì, pronto. Dimmi. Ciao, io senti, volevo solo dire una cosa sulla faccenda della Rom scappata dal carcere, che il figliolo di questo signore ha messo la taglia. Allora? Volevo solo dire, quando la giustizia italiana fallisce, qualcuno deve intervenire. Che sia il familiare o sia qualcun altro devono intervenire. Cioè? Perché adesso basta. Cioè tu dici che bisogna farsi giustizia da soli. Ben vengano le taglie. Cioè, ben vengano le taglie. Ma che vuol dire ben vengano le taglie? Ma come si cioè, chiama? Secondo che te devono prendere e ammazzate quella Rom che. No, le taglie. Ma le taglie, che vuol dire le taglie? In un'altra taglie maniera. È vivo o morto al tempo del Wanted, no, certo. No. Nel Far West così è. In realtà no, questo qua vuole mettere una taglia. Non stiamo parlando di Far West, stiamo parlando di maniera un po' più civile. Stiamo parlando di istituzioni. Che dove fallisce la giustizia, vengono istituite le taglie, queste istituzioni. Al posto dei poliziotti cercano queste persone e le riportano dove le devono riportare, punto e basta. Sì, ma ho capito, le taglie a che servono? A dare informazioni? A che cosa? No, la taglia serve a motivare, cioè, secondo queste te le persone per andare a catturare quest'altre. Cioè, secondo te le persone, i privati devono andare, devono cercare nei campi Rom e cercare di pizzicare questa qua che ha investito quello? Delle istituzioni particolari, come ti posso dire, tipo di chi? I servizi di vigilanza, queste cose qui, che sono armati e possono farlo. Lo dovrebbero fare, secondo me. Vabbè, ciao, fermo lì. Parenzo, vai a cagare. La Zanzara. La Zanzara è come il potere, logora chi non l'ascolta. Ho due pezzi di ignoranti, quella lì è Marta Fana contro Farinetti, una ricercatrice con due coglioni così, invece i due coglioni così siete voi due che manco sapete chi è. Ho pezzi di merda, andate a cercare, chiedetelo a Giannino, chiedetelo, imbecilli. Allora, vorrei spiegare a questo gentile cretino, a questo deficiente totale che ci dice imbecilli perché non conosciamo Marta Fana. No, non la conosco e sinceramente me ne spatto i coglioni. Ecco, sì, ho sì. detto una giornalista, una collaboratrice, una che scrive su un blog, ha criticato Farinetti per alcune cose, va benissimo criticarlo. Se ha sbagliato a criticarlo su alcuni punti, Farinetti la porterà in tribunale. L'ha è molto semplice. Che la porterà in tribunale. Ma è molto semplice, non me ne frega niente, non ho detto ha torto, ha ragione. Ho detto semplicemente che questa qua non la conosco. Non è Churchill. No. Cioè, non è Napoleone. No, questo cioè, neanche. Non è Berlusconi, che lo deve conoscere per forza. No. Si chiama Marta Fana, una signora nessuno nel grande pubblico. Per il grande pubblico. Ma lei sarà conosciuta, tu la conosci. Chi se ne frega, imbecille. Comunque, caro Parenzo, sì. quando tu stavi per arrivare, sì. ho sentito la sorella, la figlia, anzi, dell'uomo ammazzato dalla Rom. Mamma. Senti che dici. Si chiama... Com'è che si chiama? Non mi ricordo. Fiamma, Gemma Giagnotto. Pronto? Gemma? Sì. Salve, sono Cruciani, Radio 24. Ah, salve. Come stai? Abbastanza, facciamo andare, diciamo. Senti, ma che, com'è la situazione? A che punto siamo nelle ricerche di questa zingara che è scappata? Noi quello che sappiamo è che la stanno cercando, ma che non la trovano, e che hanno perso anche le tracce del marito, perché il marito lavorava e comunque risiedeva nel campo di strada dell'aeroporto. Invece adesso la roulotte è abbandonata, mancano anche i vestiti e anche di lì si sono perse le tracce. Ecco, ma le autorità che cosa vi hanno detto? È vero che hanno detto, beh, però può capitare a tutti, non c'entrano allora, niente i Rom? Le autorità, noi siamo stati ricevuti dal prefetto, sì. Lui ci ha detto, ha esordito dicendo che in Italia ci sono 3.500 incidenti stradali all'anno, parlando di incidenti, quando quello di mio padre non è un incidente, è un omicidio stradale, che è una cosa diversa. Cioè, che, ricordiamo, questa Rom ha fatto inversione di marcia ed è andata addosso a tuo padre che era in moto, giusto? Esatto. Lei ha fatto un'inversione di marcia su un cavalcavia, praticamente ha fatto una manovra d'assassina in un punto che era impossibile per una manovra del genere, ma lei è senza patente, anche non è patentata, è stata fermata senza patente ben 6 volte, quindi... Dopo che ha colpito tuo padre, che cosa ha fatto? Ha continuato la manovra, infatti ha trascinato mio padre per terra, infatti mio padre è stato trovato a pancia in giù con lo scooter sulla schiena, è andata a nascondere il camper in una zona industriale che c'è vicino al cavalcavia. C'è una persona che dice che attorno a mio padre hanno visto dei ragazzi zingari, sì. E che quando questa persona è discesa dal mezzo li ha visti scappare. Noi però non abbiamo prove che siano stati loro a mettergli le mani addosso a mio padre a prendere i soldi, purtroppo non abbiamo una prova. Ma perché tuo padre era senza soldi quando è stato trovato morto? Mio papà è stato derubato, noi abbiamo dovuto fare denuncia per i documenti e per i soldi che aveva addosso. Cioè è stato derubato a terra morto praticamente. Esatto. Il prefetto che vi ha detto ci sono 3.500 incidenti stradali all'anno. Esatto, ci ha detto questo, ha detto che il problema dei Rom è un problema enorme, che non è l'esercito che può risolverlo. Ha detto che non è giusto generalizzare, quando noi gli abbiamo fatto presente che dopo l'incidente di mio padre noi siamo stati contattati da un sacco di persone che lamentavano varie problematiche, perché nella periferia di Torino non è solo questo il problema legato ai campi, ce ne sono molti altri. Cioè lui vi ha detto sostanzialmente no, ma non ve la prendete troppo con i Rom, questo è il punto. Esatto, io gli ho fatto una domanda e gli ho detto ma questa persona è scappata, e lui mi ha detto vabbè, non è la prima persona che scappa dal carcere. E lei come l'ha presa? Quando ti ha detto queste cose, come l'hai presa tu? Io ho solo intimato a mio fratello di non parlare più e di non chiedergli più niente, perché una persona che ricopre la sua carica ci dice così, cioè... Ti sei sentita presa per il culo? Esatto, perché lui ha detto che sono cose che possono succedere, lui praticamente ha minimizzato la cosa, no? Scusa un attimo, se tu ce l'avessi davanti che cosa faresti? Lei? Sì. Non lo so, io principalmente vorrei sapere, perché lei ha dichiarato anche che lei ha visto delle persone che volevano picchiarla ed è scappata tornando indietro. Io l'unica cosa che vorrei capire è perché poi dopo averla investita ha fatto tutto quello che ha fatto. Perché lei gli inquirenti hanno detto che lei non è pentita e non è, che è fredda e distaccata, quindi... Cioè, io vorrei capire, lei veramente... Scusa, ma è stato facile per lei scappare dal carcere? È stato facile, sì, perché noi, per quello che sappiamo, lei non era all'interno del carcere. Cioè, quella struttura dove lei era ospitata è una struttura che è riservata alle donne che hanno dei bambini sotto i 3 anni di età. Sì. Ed è una struttura che sta fuori dalle mura di contenimento del carcere. Per cui lei ha detto di avere un bambino, ha 21 anni, ha detto di avere un bambino. Sarà vero che ha un bambino? Bah, chissà. Sì, no, è vero, perché lei si è presentata proprio poi alla polizia con questo bambino in braccio. Sì, infatti, ho capito, ma è possibile che uno può uscire così facilmente da un carcere, scusa? No, è una cosa, secondo me è una cosa impossibile. Cioè è una cosa assurda. Io capisco che abbia un bambino, ma comunque ha ammazzato un uomo e rischia una condanna, deve essere detenuta in un certo modo. Cioè è una cosa assurda che lei possa stare in un posto dove esce da una porta, scavalca una rete e va via. Senti, è vero che tuo fratello ha messo una specie di taglia, cioè ha detto che pagherà anche delle informazioni importanti? No, non è una taglia. Mio fratello, quello che ha detto, ha parlato di ricompensa per chi fornisca informazioni alla polizia. Beh, quello sto parlando. Sì, però sì. Una taglia è una cosa, perché noi non abbiamo messo nessuna taglia sulla testa di nessuno. Mio fratello ha parlato di ricompensa per chi fornisce informazioni. I giornali hanno scritto una taglia, hanno scritto la nuova trovata della famiglia Giagnotto è una taglia. Non è così. Dato che lei si fida della giustizia? No. No, perché? Non mi fido più. Perché? Non mi fido più perché perché innanzitutto mio papà è stato ucciso da questa donna e comunque lì dove è morto mio padre non è l'unica cosa grave che è successa e nessuno ha preso provvedimenti, perché sono successe cose 2 anni prima e 4 anni prima. Cioè tu stai dicendo che è vero che gli incidenti stradali possono capitare a tutti, ma è anche vero che i nomadi lì la fanno da padroni, cioè fanno quello che vogliono, no? Sì, esatto. Voi avete protestato anche per la situazione dei campi rom nei dintorni? Sì, per i roghi tossici, per un sacco di problematiche legate a questo. Io non sto facendo la lotta contro i rom. Che ne pensi? Io penso che... Dimmi la verità sui rom, che ne pensi esattamente? Io penso che la giustizia deve essere uguale per tutti e se io rispetto le leggi devono rispettarle anche loro, che non devono esistere dei posti in cui le leggi non vengano rispettate da chiunque, fossero rom o fossero italiani, per me è la stessa cosa. Non possono esistere degli accampamenti di questo tipo dove la legge non viene rispettata. Ma quando li incontri per strada, lì dalle parti tue, hai paura dei rom tu? Paura no, però sto attenta magari, perché so che magari, non so, può capitare qualcosa, di stare attenta si sta attenti, è normale. Va bene, cosa farete adesso? Noi attendiamo adesso, speriamo che la riarrestino di nuovo per andare avanti col processo e tutto il resto, vedere cosa viene fuori dalla giustizia. Va bene, grazie, a presto, grazie. Ciao. La caccia ai rom continua, caro Parenzo, la così, caccia alla rom. Mi pare che sei quasi divertito, no? Del fare dopo la caccia alla volpe, la caccia alla rom. La caccia alla rom continua. Mi sembri in modo malevolo, divertito, soddisfatto no, di questo clima. No, che soddisfatto, allora, hanno ammazzato uno. Chi ha avuto un lutto ha diritto di reagire, di avere una rabbia. Gli altri, dici? Ma tu devi essere, come dire, anche devi educare, devi rifiutare. No, mi fa incazzare l'idea, capito? Che magari qualcuno è andato anche a rubare sul no, hai sentito, no? Ma cioè quello per terra non gli hanno nemmeno trovato il portafoglio. Sciacalli, ma quelli sono dei ladri, sciacalli, che vuol dire? Però perché questo è lo stato di diritto, ti ha insegnato di fare la caccia al rom, allora, ma che siamo diventati dei barbari? Fermi tutti. Froci e tutti gli altri subumani. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo. Siamo il top. Ma va su La Zanzara. Naturalmente. Sono Parenzo. Ma chi cazzo te sen cula? Ma non senti che non te sen cula nessuno? Non te conosce nessuno? Ma chi cazzo te credi di essere? Imbecille! Ma vattene a fanculo, non hai visto come hai detto la terza volta? Sono Parenzo! Quella presa attaccata al telefono! Ma rivattene a fanculo, deficiente! Sono Parenzo! Ma chi cazzo te credi d'essere? Stupido! Ma vattene a fanculo in Istria! Oppure fa una cosa! Vattene a fanculo nella tua civilissima Tel Aviv! Imbecille! Stupido! Sono Parenzo! Ma chi cazzo sei? Non sei nessuno! Senti che quanta presupopea lo dice. Sono Parenzo. Ma vattene a fanculo. A te e chi te mette le scarpe la mattina. Stupido. Va bene. Potrebbe anche sostituire Buonasera. Il signor Mauro da Mantova. Buonasera, sono preso. Non so chi sia quel signore che hai detto. Mauro, buonasera, Mauro. Lo disconosci? Non esiste, esiste solo Donato da Varese, che è un grande miserabile, un fottuto miserabile. Le altre sono comparse patetiche anche, che provano, come dire, a riemergere, ma in realtà il vero è Donato da Varese, l'unico originale, vero, miserabile, il capo dei miserabili. Cioè tu dici, è un pezzo di merda, tu dici. Ma assolutamente, è un maledetto, è una persona che beve le bottiglie con le bottiglie di plastica, che si pulisce si pulisce la bocca usando la tovaglia, però che non sa, che mangia con le mani e non con le forchette. ma nel suo essere un dannato fottuto figlio di puttana ha una sua autorevolezza. L'altro è niente, nessuno, è nulla, nulla, nulla, nulla. Giorgio da Torino, vai Giorgio, vai. Ciao. Dimmi, dimmi. Allora, vabbè, intanto sono d'accordo con Parenzo su Donato Bavarese, un miserabile. Poi, volevo dire due cose. La prima, basta, avete rotto i coglioni. Siete noiosi. E mi rivolgo a tutti quelli che ogni tanto chiamano, che ve ne vi criticano, ve ne dicono di tutti i colori, ce l'hanno con la trasmissione, con le vostre idee. Basta, vi conosciamo. Diciamo, portate avanti questa parte, la recitate più o meno, e chi non vuole ascoltare la trasmissione che ascolti altro, no? Perché certo, questo è giusto. Questo è giusto. Vabbè, allora secondo e mi rivolgo a Parenzo. Mi rivolgo a Parenzo. Esatto. Sì, dimmi, dai. Riguardo ai suoi, diciamo, pregiudizi al contrario che ha verso i Rom. No, io non ho nessun pregiudizio, siete voi che per me i criminali sono criminali. No, ma questo deve essere chiaro, non c'è nessun pregiudizio al contrario. Anche io, lei, ad esempio, potrei considerarla un idiota da quello che dice, però non ho un pregiudizio, cioè aspetto che lei finisca. Aspetto che lei finisca di parlare. Non potrei considerarla un idiota preventivamente, anche se il legittimo sospetto ce l'ho, ma non mi permetterei mai di dirle che è un idiota. L'hai fatto più volte. No, ma non posso dire che come si chiama questo? Come si chiama il nome? Come si chiama questo qua di nome? Giorgio. Non posso dire che Giorgio è un idiota. Cioè, se lo dicessi sarei prevenuto. Giorgio, no, per me non è idiota, Giorgio. Però vediamo cosa dice, aspettiamo. No, ho chiamato per parlare, per parlare, no? Sì. Giorgio, però vai, su, non stai parlando però. Allora, tutte premesse, che esperienze e conoscenze ha Parenzo per avere queste idee così ferme e questa battaglia che porta avanti nella difesa dell'etnia Rom? Ma non lo so, ma non è una. Ma qui non è che si fanno domande. Secondo lui sono integrabili. Secondo lui sono integrabili. Secondo me non sono integrabili, punto e basta. No, non si possono integrare. Esatto. Allora, per carità, vivono una vita separata, parallela, va bene. In un universo parallelo, basta che non rubano, rompono i coglioni, per me possono fare quello che vogliono. Frequento da anni i campi rom torinesi. E quindi, insomma, un'idea abbastanza precisa. Cioè, non si vogliono integrare, vogliono fare una vita parallela. Per me possono fare quello che vogliono. Non si possono integrare. E parliamo di quelli che vivono con i topi e i rifiuti nel campo di strada dell'aeroporto dove è successo il fatto, a quelli super facoltosi che sono i sinti, che sono i più pericolosi. Certo. Ecco, quelli sono quelli integrati. Quindi, se vogliamo vedere nella storia, adesso qui non stiamo facendo la storia del movimento Rom, amico mio. Questa è l'integrazione del Rom. Va bene, dai, Massimo da Verona, vai, Massimo. Ciao a tutti. Dimmi. Volevo semplicemente farvi un quesito. Si parla sempre di stato civile. Stato civile, in uno stato civile, specialmente dal signor Parenzo. In uno stato civile, in uno stato di diritto, oltre che civile. In uno stato di diritto, certamente, ma io sono d'accordo, io sono per la civiltà. Però mi dovrebbe spiegare il signor Parenzo come mai il 43% dei detenuti in carcere attuale è straniero. E come perché hanno dei pessimi avvocati. Io lo dico io, perché hanno dei pessimi avvocati. Perché c'è un tasso, di delinquenza ricchi, superiore. Dai, perché su. A differenza dei ricchi che si possono pagare degli ottimi avvocati, spesso si sta in galera per reati bagatellari, come potremmo definirli. Piccoli reati. Cioè piccoli, piccoli reati. Vabbè, allora Massimo, che cosa vuoi dire con questo? E poi vorrei semplicemente dire che sinceramente fare il terminista e dire che lo Stato deve essere civile, bisogna garantire i diritti a tutti, bisogna avere anche le risorse economiche e anche il potere di farlo. Cioè, va non bene, si può... Franco da Milano, non ho capito un cazzo. Franco da Milano, dai, Franco, dimmi. Sì, pronto? Dimmi, Franco, dimmi. Senta, io volevo rispondere un po' a quello che ha detto Berlusconi. Io sono fanno parte di uno dei 15 milioni di barboni. Sì. Fannulloni, parassiti, morti di fame. Vabbè, adesso non si è espresso proprio così, signor Berlusconi. È giusto che dice questo, perché lui sa che se noi arrivassimo a governare, per lui è finita. Ma è finita per lui, ma è finita anche per voi. Prima voi eravate Lecca Renzi, ora siete diventati anche Lecca Renzi e Lecca Berlusconi. Ma che cazzo dici, Franco? Sei un pazzo. Sarà finita per voi. Addirittura. Ma cosa sarà finita? Ma non vi preoccupate. Cos'è questa storia? È finita anche per voi. Ma perché? Ma poi perché? Non ho capito. Guarda. Io, tra l'altro, le ultime elezioni politiche nel 2010 ho votato pure per i 5 Stelle. Votato, vabbè, io voto per il caos in generale. A te piace piace, a te piace questa roba qui. Cioè, il risultato è che tu sei come questo che telefona. Il fatto è che il tuo voto alimenta questo qua che telefona. Capito? Che tu lecchi dalla mattina alla sera. Stamattina hai fatto un'ora di programma sulla l'hai visto? No, ma che programma hai visto? L'ho fatto su Banca Etruria oggi, stronzo! Su Banca Etruria l'ho fatto, ma che dici? Sì. Ma quale Raggi? Ma che hai visto? Ma che perché hai visto? Perché non vai vedere le... E poi faccio su quello che cazzo mi pare. Guarda, mi avete stufato. Lo faccio su quello che mi pare. Non mi paga Casaleggio. Non mi paga Casaleggio. A me, hai capito? Lo stipendio non me lo paga Casaleggio. Non me lo Casalecchio sul Reno. Non me lo paga lo stipendio, hai capito? Certificato. Tu devi sapere che a me lo stipendio. Non me lo paga Casaleggio, hai capito? Non mi paga Casaleggio. Ma che cos'è? Non ho capito. L'ho fatto su Banca Etruria oggi il programma. Non ho capito, scusa. Dalla vostra parte, ti fai mettere lì alla vostra parte a fare il lecchino Berlusconi. Scusami, non ho capito, Franco. Io a chi leccherei il culo invece? Ecco. Ma tu lecchi sempre, sicuramente sempre contro i 5 Stelle, sempre. Io contro i 5 Stelle. Sì, io contro ci... ma questo cioè, secondo me mentalità... avete sempre qualcosa da dire ora sulla cosa che ha fatto la radio sulla cosa ha fatto la radio di bevande alcoliche sui vetri non sai un cazzo l'Appennino non la radio ha fatto bene peraltro l'Appennino ma io ho detto che ha fatto bene anch'io. Io ho detto che ha fatto bene. Quando ti telefono sulla cosa della Raggi, sul divieto di vendita è l'Appendino, quello di Torino. Lo fanno tutti i sindaci. Perché l'ha fatto l'Appendino è successo un casino, è vero? Lo fanno amico tutti mio, io sono a favore. Tu non gli rispondi. Sono a favore del provvedimento dell'Appendino. Io sono a favore del provvedimento dell'Appendino. L'ho sempre detto, sono a favore. Ha fatto benissimo. Sveglia, lavati le orecchie. Lo hai spiazzato. Che ha telefonato prima perché non glielo contraddicevi. Ma che me ne frega di quello che ha detto prima? Lascia perdere. Ma comunque, chi lo stiamo leccando il culo? Guarda, non ho capito. Sei Fausto da Roma. Pronto? Dimmi Fausto, dai, forza, veloce. Io volevo intervenire sulla faccenda quella di Torino. Sì, dimmi. E niente, a parte il fatto che ho visto Parenzo sulla 7 e mi è venuto da vomitare. Beh, è già un sentimento. Ciao amico Rom, sono Parenzo. A me ciao, se mi era amico. Capitato quello che è capitato qua a Pavia degli italiani di Torino, io davo fuoco a tutto il campo. Ah, ho capito. Io davo proprio fuoco perché i fingeri tocca solo dagli fuoco e basta. Ho capito. Ecco, questo è interessante. Questo derapace. Solo fuoco, riapertura dei forni alla grande, bello, butti dentro e via. Scusi. Capito? Scusi, abbiamo il numero cruciale di questo qua? No, di telefono, adesso vero? Che c'entra il numero? No. Questo sta esprimendo un'opinione. Ma quello se è pro stronzo deve fare. Tu invece pagherai per quello che hai detto. Tu invece pagherai per quello che hai detto. Per ora no, scusami Fausto, non ho capito. Se ti fosse capitato a te, cioè tuo padre investito da una signora a Roma, dal 2000 per 1000 mi facevo giustizia da sola. A parte il fatto che se andavo a parlare col prefetto, gli davo una pizza in faccia solo per quello che ha pure. Detto. Altro reato 2012. Mi diavo un altro raggio che dà una pizza in testa di cazzo. Perché altro reato, minaccia pure al prefetto. Bisogna dire anche una cosa, caro Fausto, che se tu andavi davanti al prefetto e gli dai una pizza in faccia, diciamo seduta stante. Quelle leggi che ci sono in Italia che mi facevano fare due giorni. Vabbè, ho capito, ma non è giorni. Bello, a te sembra che non te frega un cazzo delle galera. Minacce, non è che commette un omicidio, ma uno che me viene a dire ma si sono 2000 incidenti, capitato a suo padre, da quello, quella è un prefetto, quello è un testa di cazzo, non è un prefetto, secondo me. Altro reato, che meraviglia, tre reati in quattro minuti, che lei ha commesso più reati che in un anno in un campo rom, lei in tre minuti, in tre minuti di trasmissione ha commesso più reati di quanti se ne commetterà la Barbuta, che è un campo rom di Roma, la Barbuta. Ciao amico rom, sono Parezzo, sono tutti ciao imbecille, sono Parezzo, ciao imbecille, porello che sei, mamma mia. Che prima o poi zingari ti imboccano dentro casa, e almeno così dopo vedo quello che fai. Ma io non l'ho capito, ma quando, ma io non ho capito, ma quella sera tuo padre non ma quella sera tuo padre non poteva mettersi il preservativo quella sera? Tuo padre quella sera perché non si è messo il preservativo quella sera lì? Perché? Perché era bucato? Che è successo quella sera? Io spero che i tuoi figli non vengano come te. Ma io voglio sapere, sei un povero, sei un povero deficiente. Spiegami una cosa. Ma io non ho capito una cosa. Spiegami una cosa. Perché quella sera? Aspetta, perché bruceresti tutti i rom? Ma non c'è da capire, ma cosa vuoi capire? A me se mi toccano uno dalla famiglia, io faccio una strage, mi frega mica a cazzo, mica sono un musulmano io, sono italiano, Ma che vuol dire? A me mi toccano un figlio, mi toccano mi padre, una sorella, certo, io faccio una strage proprio, perché tanto questi fanno cazzo, capito? Fanno come gli pare, e nessuno gli dice niente. Tu dici che alla fine questa roba di 21 anni che sono garantisti come quei comunisti di merda che sono come Parenzo, perché sono i comunisti di merda che sono garantisti di sta gente, capito? Tu che sei musulmaniano? Sei musulmaniano? Ma no, è un pirla, basta. Io sono fascista proprio, quinto reato, dai Parenzo, quinto reato. Io sono fascista, ma anche questo vero. Sicuramente un reato, ma rispetto vero. A tutto quello che ha detto prima è la cosa migliore che ha detto oggi. Guardi, pensi lei, la gravità di quello che ha detto prima è molto più grave di questa stupidaggine che ha detto ora, che è fascista. La gravità sì. Parenzo, io volevo dire, se te era successo a te e andavi davanti a uno che rappresenta lo Stato e ti dice ma è un incidente, ma tu un prefetto ti permetti da dire una cosa del genere a una figlia che gli hanno ammazzato il padre così in quel modo? Beh, certo, ma questo si può. Ma questo sei un testa di cazzo, no? Questo è altro reato. Scusi, però, dice dunque, siamo a quota 7. Ma io posso arrivare pure 7. Fino a 10. Ho proprio problemi, capito? Io sono fascista, vero? Lei è un disturbato. Mi dia retta, no, magari fosse fascista. I fascisti almeno avevano un orgoglio, un'ideologia. Lei è semplicemente un disturbato. Mi dia retta. Parenzo, io già te l'ho detto qualche mese disturbato. Fa, tu hai due bagarozzi in testa, uno spigna e l'altro fa l'arcavena. È sempre quello della solita battuta. Viva sempre. Ma non esisteva la pillola. Ma non esisteva la pillola del giorno dopo per sua madre, vero? All'epoca non esisteva. Non c'era l'aborto all'epoca, quando lei è nato non c'era l'aborto, vero? La pillola del giorno dopo all'epoca non c'era. Se mi fai parlare, ti dico la differenza tra me e te qual è? Che tu sei un comunista di merda, e prendi i soldi e fai il comunista, e prendi i soldi e prendi in giro. Io sono un lavoratore e un fascista vero. Io sono da 15 anni che lavoro, faccio l'autista da 15 anni che lavoro, mi sono bagnato miliardi e miliardi di chilometri. E questo l'autorizza a dire cose razziste e schifose? Questo l'autorizza? L'autorizza a dire delle cose schifose e razziste? Io almeno ho il coraggio delle mie azioni, sono fascista. Ma razzista, vada quel paese, capito? Vada pure quel paese. Pure nazista. Sì, sono razzista, come no? Pure. E vedi un po', i figli che vengono fuori, questi vengono qua, vanno tutti come gli pare. Non manca niente. Sei pure contro i gay? No, i gay me ne frega a cazzo, ognuno col culo suo ci fa quello che gli pare. A me mi pare, che bella sintesi. Ma che bella sintesi. Lei fa la stessa cosa con la bocca, figuriamoci. Lei la stessa cosa la fa con la bocca, quindi figuriamoci. Io so con le forze dell'ordine, quando la gente dei centri sociali che sono comunisti del merda e pezzi del merda che fanno un cazzo dalla mattina alla sera, vanno a sputare addosso ai guardi. No, è il manganello. Ma io oltre al manganello gli farei bere pure 2 litri d'olio di ricino. A sti cornuti comunisti. E qui comunisti con quanti? Con quanti? Fermi tutti. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore, Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi. La zanzara. bastardi ladri figli di puttana. Entrate nella mia proprietà, io vi ammazzo, vi sbudello e con le vostre ossa ci faccio un brodo. Bastardi, morite, ladri, feccia dell'umanità. La zanzara. Poca figa massaggio. Parenzo, devi schienare Elena. Ti prego, fallo per noi. Per noi chiamiamo le cavigliere. Schienala. David, con grande pacatezza e tranquillità, con ben due cavigliere ai piedi. Ancora, quando vuoi. Quando vuoi. Cioè, secondo me, Davide, questa qua si è fatta direttamente le cavigliere. Però io, prima del tuo intervento definitivo su questa questione di Elena, che io vorrei arrivasse alle orecchie della signora Natania, se non è già arrivata, anzi sicuramente sarà già arrivata, e devo farti sentire come un esponente della maggioranza silenziosa che si chiama come te, David, e si rivolge ad una signora transessuale. Cioè, tu dici, i signori della maggioranza silenziosa non cercano transessuali. No, già questo lo fa. Ma come è un agente provocatore, avrebbe detto così, che c'è un infiltrato, è in realtà uno della minoranza rumorosa che fa finta di essere della maggioranza. Ma perché non possono nemmeno entrare in contatto con i transessuali? Non esiste al mondo. Tranne che per esigenze professionali. Esatto, per interviste, cose, eccetera. Però per appunto no, non è possibile entrare in contatto con questi mondi. Sentiamo. Sì, buonasera, mi chiamo David. Ha tempo per me forse stasera? Certo. Posso chiederle cortesemente cosa fa? Sono attiva passiva completa, qualsiasi cosa. Lo sa perché le chiedo questo? Perché io faccio parte della maggioranza silenziosa che si ispira al nostro grande portavoce Parenzo. Lei ha mai sentito Parenzo? No. Parenzo è il nostro portavoce, diciamo che lui si ispira a un modo di comprendersi reciproco, fatto di dialogo soprattutto e di reciproca empatia. Quindi io volevo chiederle, posso offrirle una cena? Ma non capisco, vuoi uscire? Possiamo uscire? Io porterei a lei dei fiori, poi potremmo mangiare fuori e poi parlare della nostra quotidianità. Non so rispondere, guarda, perché... E di solito non ho mai fatto questo tipo di cose. Potremmo anche, non lo so, se lei legge dei libri di epistemologia, semiotica. No, non ho pazienza da leggere. Leggere niente, se no ascoltare della bella musica classica, Mahler, Brahms. Guarda, non so rispondere, che non ho mai fatto questo tipo di programma, non ho mai fatto. Così una conoscenza più empatica, interiore, ecco, che si ispira appunto al nostro grandissimo Parenzo. Poi le porto dei bellissimi fiori. A me mi piace soldi. Quanto chiede, gentile signora? Perché, scusami, fiori non paga mia bolletta, non paga. Sì, sì, no, per carità. Mangiare non paga neanche quello. No. 100 euro, caro. Quanto? 100 euro. Ah, ecco, sì, va bene. Che parola, non è che mi esce la pancia domani, capisci? No, beh, certamente, signor, capisco benissimo, anzi, ci mancherebbe altro. Sono veramente missionaria, io sopravvivo del mio corpo e allora... Sì, ma ecco, ripeto, visto che io appartengo alla maggioranza silenziosa... E lei appartiene a questa maggioranza? di questo, ma lei ha visto il mio annuncio e mi ha trovato, sì. Se vuoi venire da me mi porta 100 euro, se non facciamo sesso, bene, se facciamo è sempre 100 euro e basta, capisci? Legnano? Non sono verso Legnano, sono proprio a Legnano. Sì. E beh, Legnano è provincia di Milano. Sì, lo so. Sono straniera, ma non sono così stupida quanto pensate. No, non mi permetterei mai, signora. No, ma sembrava quello, no? No, assolutamente, anzi, io cerco la sua compagnia perché ritengo sia una persona sensibilissima che possa ascoltarmi. Grazie, per me nessun problema. Lei è gentilissima, allora grazie. A risentirci e arrivederci presto, grazie. Grazie. Arrivederci. giustamente l'esponente della maggioranza silenziosa valenziana, che cosa fa? Cerca di capire se questa qua ha bisogno di altro. Questa prostituta transessuale cosa dice? Io voglio soldi. Però noi in realtà abbiamo questo approccio così, cioè mazzo di fiori, cena, magari discutere un po', cioè entrare in empatia. A parte che comunque è sbagliato chiederlo alla signora trans, perché voglio dire, mi pare come... Però in generale l'approccio ci siamo, cioè questa, questo capito, David però, che non so chi sia, questo Cesare, questo, si chiamasse, non lo vabbè, so, questo personaggio che ha chiamato interpreta bene lo stile, anche la non aggressività, la bellezza di avere un rapporto che vada oltre la fisicità. Sì, ma quella non gliene frega un cazzo, cioè, ho capito, ma credo, io non cercare come riempio mia pancia, dice, come riempio, si dice, mia... i fiori non si mangia, questo dice la signora. Paolo da Vicenza, vai Paolo. Teresa da Genova, vai. Eccomi. Vai Teresa, vai. Allora, io sono una signora di 66 anni, di Genova. Bene. Faccio parte di quegli elettori, di quei 9 milioni di elettori che votano 5 Stelle, e vi assicuro che sono una benestante. Ho quattro figli, uno dei quali vive vicino alla palestra dove Parenzo porta i bambini. Vi assicuro che devo pensare a un futuro per i miei nipoti, io penso ai ragazzi del Movimento 5 Stelle. Innovazione, energia pulita, tutte queste cose che ve le sognate con altri partiti. Teresa, ve le sognate. E poi una cosa che vorrei chiedere a Parenzo. Calma. A 30 anni, no, non sono calma, perché io veramente le dico una cosa. Calma, ma che è sta cosa? Sono un po' stufata di sentire dire che chi vota il Movimento 5 Stelle sono dei morti di fame, dei pezzenti. No, questo l'ho detto Berlusconi, ma l'ho detto Berlusconi. Io una questo. Benestante, ha capito? Benestante, e non entro nei pitagorezzi su dove vive il mio figlio a Roma, perché altrimenti insomma sarei anche indiscreta e non è nelle mie corde. Ma scusi, Teresa, ma che cazzo me ne frega? Scusa, cosa ce ne frega dove è suo figlio? Teresa, hai detto tu. Mi sono un po' stufata, ma veramente. Signora mia, se lei è felice così, cioè se lei si sente certo rappresentata da certo Casaleggio, va bene, ok, benissimo, no, tenga Casaleggio, Di Maio, Dibba. Va bene, si tenga il Dibba. Lo penso per i ragazzi del Movimento 5 Stelle. Bene, poi che non vado a governo, per carità, magari sarà. Ferma anche lì, ferma. Però, cosa volevo chiedervi. Fermati un attimo. Un attimo, che la richiamiamo questa Teresa da Genova. Ma sento tutto, solo culo niente, capito? Sì, questo l'ho capito. C'è tutto, anche rapporto, tutto. Sì, culo niente. Sì, ma questo l'ho capito, culo niente, questo ho capito. Vuole massaggio romantico. Culo niente. Per una notte romantica. Culo niente. Impreparato mi coglie. Ehi, cosa fa? Capito? Chi glielo spiega a mia moglie? Massaggio tutto. Vai col massaggio romantico. Oh, oh. Vai con la notte romantica. Ma quanto è brava la Cina. Sì, solo culo niente, capito? Nell'arte della... Ma questo l'ho capito, culo niente, questo ho capito. Manina. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Miserabili. Ragazzi, mi trovo a Londra, vicino all'alternativissima e coltissima Brick Lane. Mi accingo ad entrare in una inaugurazione di una galleria di foto di gente tatuata, insomma, roba certamente. Insomma, sono entrato e non me ne ero accorto, avevo la cuffia con la zanzara e canticchiavo David sta andando a trance, David sta andando a trance. Dottore, dottore, presidente sull'altra linea. Senza controllo sanitario. Ciao Giuseppe, sono in vacanza sul Lago Maggiore, in questo posto bellissimo, pettinatissimo, immerso nel verde, con la piscina a due passi. Sono fuori sotto il portico ad ascoltare la diretta della Zanzara, qui attorno tutti vicini con la puzza sotto il naso, tutti della maggioranza silenziosa. E mentre tu inviti la vecchia a dare via il culo, la mia ragazza mi dice: abbassa che mi vergogni, è tutto finito, tutto degradato. Ormai è tutto degradato, ormai. Ma com'è che si chiamava la vecchia? La signora? La signora, quella là che ho detto a un certo punto: ma lei deve dare via il culo, ancora quella... è vergine, ancora è vergine dietro, non me la ricordo, non era Maria Antonietta. Adesso, cazzo, ragazzi, sono completamente rincoglionito, non mi ricordo più. Com'è che si chiama? Non suggeritemi. Tengo il controllo delle signore. Teresa, diciamo. Teresa! Eccomi. Allora, io non ho capito una cosa. Tu ci hai chiamato per dire: non è vero quello che dice Berlusconi. Io ho votato Movimento 5 Stelle. Ho un figlio anche a Roma che è amico di Parenzo. Vede Parenzo. No, amico, ma non ho assolutamente mai visto nessuno. Nego tutto. Io voto 5, voto 5 Stelle e sono benestante. Anzi, no, diciamo. Sono stufata veramente, perché ora che voi siete una radio che fate, per carità, scherzi, scherzate, io vi ascolto molto molto molto, sì, perché mi fate, ma sai che secondo me Teresa però è un maschio, che mai nessuno no. Siccome tu sei un maschio. Eh no, io sono caro, magari. magari nel senso che avrei avuto sicuramente la vita molto più schianata. Invece sono una signora di 66 anni, sono una psicologa, psicoterapeuta di Genova, e scusatemi se prima mi sono alterata, ma perché io sentivo continuamente questa tiritera e sono morti di fame. Non è affatto così. E non, cioè, e ora capisco voi, perché siete, ripeto, una radio che fa sorridere, ma che non ci sia una trasmissione, nessuna trasmissione, dove io sento dire che il sindaco di 29 anni di Genzano ha vinto Genzano ha vinto un premio per la raccolta differenziata, che da zero è passato a 70. Vabbè, il sindaco di Genzano è il sindaco di Genzano, piccoli paesi. Ma il sindaco di Pomezia, cioè, voglio dire, sono tutte piccolezze, però messa una sull'altra. Io le dico francamente, signora, lei è una signora benestante, borghese, grillina, una ricca grillina, ci tira a dire molto, una ricca grillina. Perché no? Oltretutto, quello che veramente mi stupisce, ma ve lo dico col cuore, ragazzi, sinceramente, ascoltate, quello che mi stupisce è che io potrei capire una signora della mia età, magari, che non so, non sono tanto scolarizzate, non usano il computer, capisco allora questo timore del nuovo, ma ragazzi come voi, che hanno oltretutto quattro figli in due, e più? Che non si rendano conto che... No, perché Cruciani ce n'è una che non è vero, si scusa, che non è stata riconosciuta, non si rendono conto che comunque, al di là che siano bravi, non bravi, che il futuro è comunque il futuro è nelle idee che esternano questi ragazzi. Ma chi l'ha detto che il futuro è lì? Ma chi te l'ha detto? Ma non è vero manco per niente. L'energia alternativa no. Ma è una roba di confusione. L'energia alternativa. Ma cosa dice? Ma che ci voleva Grillo per l'energia alternativa? Ma le pale eoliche da quanti anni ci sono? Dai, ma non diciamo stupidaggini. Arriva la ricca a dirci l'energia alternativa, la ricca nonna che dice grillina, no, rivoluzionaria. Ma ricca, ha detto lei che è la ricca nonna dei parioli che vota con la puzza su Bassi, la ricca nonna dei parioli che vota Grillo. Io sono una signora. Ma una signora, 66 anni, molto snob, molto borghese. Allora, io voterò Grillo, che vuole la rivoluzione. Perché questo, quello che mi stupisce di voi, sa che cos'è? Che sì. non di voi, no, della radio no, devo dire la verità, la radio dà quello che ha e mi fa piacere, perché è un po' scanzonata. Quello che mi stupisce di quello che sento è che comunque tutta questa grillini, morti di fame. Signore, ma io volevo chiedere a Parenzo, signor Parenzo, ma lui a 30 anni che cosa faceva? Niente. Sono tutti ragazzi sotto i 35 anni, quelli di... A 30 anni e io già lavoravo. La percentuale più alta dei laureati. Lavoravo. Io non credo che... Lavoravo. Perché questi cosa fanno? Io lavoravo. Ragazzi cosa fanno? Lavoravo, lavoravo non come dipendente della Casaleggio Associati, però lavoravo. Lavoravo. Ciao Teresa, ciao. Diavolo, va. Ma pure! La cosa è incredibile! Allora, quella del culo era Clotilde da Palermo. Clotilde. Allora, caro David, c'è un signore che fa il sindaco a Domodossola, il quale qualche giorno fa, che cosa ha detto, cosa ha proposto il signor sindaco di Domodossola? Sì, l'abbiamo anche... Il coprifuoco. Una cosa vergognosa. Per i profughi dopo le ore 20. Che porcheria. Il coprifuoco. Ma che cosa vuol dire per i profughi? Ma che modo di fare? Dopo le 20 non è a Domodossola, poi Domodossola è una stazione dei treni, mi pare. Sentiamolo. Pronto? Sì, sindaco? Sì, con chi parlo? Buonasera, sono Cruciani, come va? E Parenzo. Oh, buonasera, buonasera, come sta? Come andiamo, lei? Ma sì, abbastanza bene, sono in montagna, a dire la verità, non posso parlare molto. Le rubo solo 5 minuti, sindaco. Sì. Senta, ma allora questa storia del coprifuoco per i profughi, ma sì. Lei dice anche finti profughi in realtà? Non è che lo dico io, lo dicono i numeri. Mm. Cioè nel suo comune arrivano finti profughi? Ma guardi, in tutti i comuni d'Italia, non credo sì. che sia, non credo di aver scoperto l'acqua calda, Ma lei quanti ne arrivano lì? Quanti ne ha lì a Domodossola di immigrati? Allora, guardi, quando io sono arrivato sì. erano 104. Adesso abbiamo chiuso, al 30 aprile sono riuscito a far chiudere un centro di accoglienza che era proprio di fronte alla stazione internazionale di Domodossola, sì. dove c'erano 12 migranti che sono stati trasferiti presso altri comuni, quindi sono 92. Scusi, accoglienza. Ma 100 migranti sono troppi per lei? Dovrei averne 47. La questione del coprifuoco, a che serve? Cioè, lei dice, dopo le 20 questi qua non possono circolare in pratica? Sì. Ma perché guardi, ma perché? Qual è il problema se restano in giro dopo le 20? Allora, il problema è che quando arriva il buio, diciamo, sì. e cominciano a girare in gruppi di 5 a 10, io le dico la verità, ho ricevuto parecchie lamentele. A che serve tenerli, diciamo, chiusi ecco. dopo le 20? Questo voglio chiedere. Le faccio tre esempi. Allora, Villa d'Ossola, sì. a 7 km dal comune di Domodossola, circa qualche mese fa, uno di questi migranti ha cercato di violentare una ragazza. Poi a Verbania ci sono stati vari casi, spesso la polizia deve intervenire sì. al centro di accoglienza, l'ultimo uno ha cercato di accoltellare una suora. Per cui lei a Omegna, due ragazzi del Gambia, sì. circa 20 giorni fa, sì. hanno preso due ragazzi, gli hanno preso il cellulare, i soldi, poi ne hanno preso uno in ostaggio perché i soldi non bastavano. Sì. Ho fatto tre esempi, io credo che sia meglio prevenire. Se uno viene trovato in giro, mettiamo che questa cosa venga applicata e passi eccetera, sì. dopo le 20 dovrebbe essere espulso. Certo, se uno non rispetta le regole viene allora Parenzo, vai, parla tu col sindaco. Caro sindaco, buonasera. Sì, buonasera. Allora, diciamo subito una cosa, è un provvedimento sì. totalmente illegittimo quello che lei ha fatto. Anziché questo, pensare intanto io non l'ho fatto, quello che ha proposto, è uguale. Io l'ho proposto. Lei ha proposto una cosa che sa che non si può fare. Cosa vuol dire un coprifuoco? Perché di notte si commettono, non ho capito, perché il coprifuoco di notte, il coprigiorno. Poi cosa farà il coprigiorno? Parliamo di 100 persone. Ora voglio dire, troviamogli un lavoro, diamogli un piccolo lavoro socialmente utile da fare lì. Avrà due strade da spazzare in più, li può far attraversare quando i bambini escono da scuola, li può mettere fuori da scuola con una bandina per aiutare i ragazzi ad attraversare la strada. Insomma, con l'intelligenza si possono inventare mille cose. Queste persone sono delle persone che attendono una risposta. Ma insomma, 100 persone non possono essere un problema per una comunità, no? Basta un criminale per provocare un problema, ma i richiedenti felicità, in realtà loro si chiamano richiedenti felicità, non richiedenti asilo. Sono richiedenti felicità. Noi regaliamo felicità in Italia, non lo sapevo. In generale, lei sindaco, lei ha avuto la fortuna di nascere, siccome è stato concepito in questo paese, ha avuto la fortuna che i suoi genitori hanno fatto l'amore in questa parte del mondo. La fortuna, guardi, che mio padre era un comandante partigiano, invece che scappare, ha combattuto per il suo paese, ha rischiato la vita e credo che ci siano ancora medaglia d'oro, delle regole da rispettare. Giustamente il sindaco cosa dice? Il sindaco ha fatto uno spot. Fare un po' di cinema, finire sui giornali, va bene. Un po' di cinema fatto, buono, anche di grande qualità, per carità. Guardi, lo farete voi. Le spiego un'altra cosa. Basterebbe trovargli delle piccole occupazioni da fare per integrarsi nel tessuto sociale della comunità. L'altro giorno ne abbiamo fermato uno di Varese. Ogni giorno ne fermiamo qualcuno. Arrivava da Varese, d'accordo? È stato fermato perché disturbava la gente. Chiedeva soldi eccetera eccetera lei mi deve spiegare, con tutti i benefit che hanno, partono da Varese. Sono quelli che hanno i manager, però cominciamo a usare le parole per quel che sono. Il vice sindaco di Domodossola, Saranno dei piccoli benefit, ma sono dei benefit. I benefit benefit ce li hanno finire. I manager, i benefit, usiamo no, i termini giusti. No, guardi, è un benefit, io rifiuto. No, chiudi la trasmissione, non è possibile. La parola benefit è una brutta parola. La deve usare per i manager. Marchionne ha i benefit. Sergio Marchionne ha i benefit, non il migrante. Capito? Grazie sindaco, grazie, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Mamma mia che battaglia, benefit. Anche quelli sono benefit. Vi trovo incredibili. Anche quelli sono benefit. Persone incredibili. Le parole hanno un senso. State spacciando menzogne in questo paese. Ma anche quelli sono benefit. Sei un avvelenatore di pozzi, un allontanatore di imprese, avvelenatore di pozzi. Dai uno spaccato, un'immagine di questo paese che è disastrosa. Vado via. Filippo da Vicenza, ma vai che bisogna Filippo concludere, da dai Vicenza, Filippo. Sono benefit per gli immigrati, sono piccoli vantaggi che hanno. Piccoli vantaggi. Vengono dati dei quattrini, una dote quotidiana, alloggio, vitto, cioè, mi hanno detto, a casa mia si chiamano benefit. Ma quali i manager hanno i benefit, hai capito? Filippo, i manager. Filippo, no, vai. Buonasera Luciane, buonasera co-conduttore Pastronzio. Dai, dimmi. Buonasera a lei, grazie per aver chiamato. Grazie a lei. Dai, veloce, amico mio, con dai. Con qualche giorno di ritardo perché purtroppo ascolto i podcast. Dai, vorrei intervenire sul tema del Torador che è stato ucciso qualche giorno tu fa. Tu sei dalla parte del toro o del torero? Ma nessuno dei due, diciamo. E allora che cazzo hai chiamato a fare? Sta buono, ascolta già. Allora, praticamente tu sei, giusto per ricalcolare sta un attimo buono, le cose. Sta buono, tu cazzo, sei... sta buono. Buono. Sì. Sei, allora, che sei per la fecondazione assistita, bimbi in provetta, mercato giusto? Assolutamente sì, allora? Sì, benissimo. Beh, allora sì. Ti proponevo, visto che sta cazzo di corrida c'è da 2000 anni, ma perché sì. Non facciamo qualche cosa di più divertente, di più moderno? Sì. Cioè, sì. Sostituiamo i tori con gli umani. Cioè, tanto qualcuno ormai... l'ha fatto, in qualche posto sì, sperduto, cioè, eccetera. Che sei... Quelli che sono, in qualche film c'è qualcuno che scappa e gli altri che lo devono ammazzare come gara. Come no, gara, no, sì. Metterli proprio dentro un'arena. Forse non hai capito ancora fuori, che per me c'è una differenza fondamentale tra il toro e l'uomo, capito? Per te magari no, per me sì, resta ancora una differenza fondamentale. Poi la volete abolire come ha fatto la Catalogna, la corrida? Abolitela. Vabbè. Certo non farò le barricate, non mi interessa fare le barricate. Se c'è, non protesto per la morte dei tori. Cioè, protesto, anzi, mi fanno impazzire quelli che esultano per la morte del torero. No, cioè, quello carità, è ridicolo. No, sì. Poi il toro sarà drogato, sarà narcotizzato, sarà mezzo rincoglionito, va benissimo. Comunque, fallo tu il torero. Ma sai quanto The guadagna show un torero? Must go on, anche con la corrida. Se c'è gente che ci guadagna ancora, va bene. Morto un toro, se ne fa un altro. Beh. A domani, ciao. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Volevo salutare Parenzio. Sì, Parenzio, come cazzo si chiama?